kupenda maradhi niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni sisiki. No mana natangaza na kupenda wewe mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona aupona nyukue. Ukifika na pona pona na rangi yako black mina kona white. Ukifupi nyundo na kuona na mwona. Ana kuona moto mwepezi japo chi chi chibongo hachi chi chi chibongo chi chi chibongo hachi chi chi chibongo. Aminyama tu akipita minyama anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Aminyama tu akipita minyama anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Minyama Stony Boy shape ya mabonde mabonde nimeridhia. Nitakumiliki usikonde hata nikifulia. Oh baby unachoza ng'ombe mbuzi wanakimbia. Na washa umogwa ya ng'ombe leta sufuria. Baby usijipe stressi we kibonge mwepesi. Waruka mpaka sarakasi samba kareti unajua. Ipsiki unoshanga ula macheni cheng. Baby you like no no so. Mdomo lips nye mpamba kiuno chako feng. Maragala make no no so. Chi chi chibong. Ha chi chi chi chibong. Chi chi chibong. Ha chi chi chi chibong. Chibong. Ha chi chi chi chibong. Chi chi chibong. Ha chi chi chi chibong. Mwezako mina penda za vipaya. Haya baya. Mwezako mina ugonjwa wa moyo. Moyo moyo. Mwezako mina penda za vipaya.